La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con La storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato al padre gesuita Raffaello Cubbe, rettore del nobile collegio di Mondragone presso Frascati tra il 1942 e il 1947. Si è distinto per il suo impegno a difesa degli ebrei durante le persecuzioni a Roma. Al gesuita è stato lo scorso dicembre conferita l'onorificenza di Giusto fra le Nazioni, il più importante riconoscimento che lo Stato di Israele assegna a un non ebreo. Ospite ai nostri microfoni il signor Graziano Sonnino, che grazie all'aiuto di padre Cubbe riuscì insieme al fratello Mario ad evitare la deportazione nel campo di sterminio di Auschwitz. Nel corso delle persecuzioni naziste contro gli ebrei, riuscì a nascondere sotto falso nome tre bambini presso il nobile collegio di Mondragone a Frascati, di cui era rettore. In questo modo, i fratelli Graziano e Mario Sonnino, di 9 e 10 anni, e il cugino Marco Pavoncello, di 10 anni, riuscirono a evitare la deportazione nel campo di sterminio di Auschwitz. Ora il nome del padre gesuita Raffaello de Gantus Cubbe è inciso nel Giardino dei Giusti di Gerusalemme. L'onorificenza, la più alta, la più rilevante che lo Stato di Israele assegna a un non ebreo, quella di Giusto tra le Nazioni, è stata conferita a Roma lo scorso 14 dicembre alla memoria del religioso e consegnata ai nipoti dall'ambasciatore di Israele presso la Santa Sede Mordecai Levi, alla presenza di Livia Link, consigliere per gli affari pubblici e politici dell'ambasciata di Israele presso il Quirinale, nonché del presidente della comunità ebraica di Roma, Riccardo Pacifici. Erano presenti anche i rappresentanti delle associazioni degli ex alunni del nobile collegio Mondragone, di padre Gian Giacomo Rotelli, delegato del padre provinciale dei gesuiti per l'Italia. Il gesuita, si legge nella motivazione del riconoscimento, scelse di nascondere i ragazzi a rischio della sua stessa vita e senza tentativi di convertire i piccoli alla fede cattolica. Nato a Orciano Pisano il 10 ottobre 1904, padre Raffaele Cubbe è morto a Roma, presso la residenza del Gesù, il 12 agosto 1983. Era al quarto di una famiglia di solida fede cristiana e di profonda devozione alla Chiesa. Il padre, Marchese Riccardo, fu cameriere segreto del Papa, da Benedetto XV a Pio XII. La famiglia era legata da amicizia con il salesiano Don Michele Rua, futuro beato. Raffaele entrò giovanissimo nella Compagnia di Gesù e tra il 1942 e il 1947 assunse l'incarico di rettore del nobile collegio di Mondragone presso Frascati. Fu inoltre vicepresidente della Pontificia Opera di Assistenza voluta da Pio XII per il sostegno delle vittime della Seconda Guerra Mondiale. In sala lo scorso 14 dicembre a portare la loro testimonianza c'erano anche i ragazzi di allora salvati da padre Cubbe, Marco Pavoncello e Graziano Sonnino. Mario è scomparso di recente, con i loro familiari. Abbiamo in linea Graziano Sonnino che, come dicevamo poc'anzi, è uno dei tre ragazzi che grazie appunto alla nobile iniziativa di padre Cubbe riuscì a sfuggire alla deportazione nei campi di sterminio di Auschwitz. Intanto grazie, signor Sonnino, di aver accettato il nostro invito. Prego. Lei era in sala lo scorso 14 dicembre a portare la sua testimonianza quando appunto è stata consegnata questa importante onorificenza a padre Cubbe. Quindi le chiediamo prima di tutto un suo ricordo personale, una sua testimonianza. Lei era molto giovane allora, però immagino molto bambino. Era molto bambino. Sì. E immagino però che la presenza di padre Cube sia fondamentale nella sua vita. Senza dubbio, senza dubbio, senza alcun dubbio proprio. Senza di lui non staremmo a parlare al telefono, purtroppo, dato poi gli eventi che sono seguiti, naturalmente. Cosa ricorda di padre Cube, della sua figura? Ah, di una figura indubbiamente, di una personalità fantastica, eccezionale, paterna, anche se era vestito da gesuita, naturalmente. Però con noi è stato un punto di riferimento. Se c'era qualcosa che non andava, cosa difficile, perché eravamo bambini, perché aver cambiato il nome e il cognome, e meglio ancora, essere allontanati dalla famiglia, era un po' difficile per un bambino. Comunque, siamo stati bene, bene significava siamo entrati nel gruppo che era lì come altri bambini, altri ragazzi, e abbiamo praticamente vissuto l'esperienza del collegio inizialmente. E siamo entrati nel normale routine della scuola, poi della vita sportiva che si poteva fare giocando a pallone, che era il nostro hobby, e meraviglioso, bello, in un locale che è fantastico, il nobile collegio di Mondragone a Frascati, che è un locale bello, me lo ricordo sempre bello, e abbiamo avuto un contatto con lui, quindi molto frequente, perché ci vivevamo insieme. Lui indubbiamente era il padre rettore, con molto rispetto lo vedevamo, e altre cose belle, tutte belle, non brutte. Lui riuscì a salvarvi perché cambiò i vostri nomi e vi inserì. Sì, ecco. Lo dovemmo fare prima, naturalmente, sì. Ci inserì nell'elenco degli alunni, i cosiddetti alunni del collegio, col nome di Sbardella Graziano, io, che sono io, che ero all'epoca mi chiamavo Sbardella di cognome, mantenendo il nome, e mio fratello, lo stesso Mario Sbardella, che purtroppo è venuto a mancare qualche mese fa, e poi c'era anche il terzo, che era Pavoncello Marco, oltre naturalmente ai normali convittori, che erano di vario rango, ma nessuno, ripeto, con il nostro problema di religione. Certo. Quindi, abbiamo imparato tutto, sì. Non abbiamo subito niente, tutto qua. Ecco, ora la decisione di attribuire a padre Cube questa importante onorificenza è ovviamente un riconoscimento importante, sì. Anche perché, lo dicevamo poc'anzi, è la massima onorificenza che lo Stato, sì, di Israele assegna a un non ebreo. Esattamente. Ecco, questa onorificenza è quella di giusto tra le nazioni. Tra le nazioni, esattamente. Esattamente. Ecco, e secondo lei che significato ha questo gesto? Ha un significato indubbiamente di grande rispetto, di grande onore alla persona del padre Cube, cioè di queste personalità, di queste persone fisiche poi, che hanno fatto in modo di salvaguardarci dalle deportazioni, tutto sommato, quello era il fine era quello, salvarci dalle deportazioni, perché eravamo circondati naturalmente dai tedeschi, dai fascisti, dai nazisti, da tutto questo elenco infinito di persone che se ci avessero conosciuto o riconosciuto avrebbero naturalmente, ci avrebbero presi, deportati, punto. Come è successo purtroppo con la comunità romana, dove naturalmente abbiamo perso una sorella di mio padre con i 3 bambini che avevano la stessa nostra età. Purtroppo non fecero ricorso a questa stratagemma di collegio, di altre cose, e rimanendo a casa dove abitavamo, in via Renula, furono regolarmente deportati e spariti nel nulla da quel giorno del 16 ottobre del 43, tutto qua. Quindi noi ci siamo salvati perché non c'eravamo, sì. Stavamo in collegio a Mondragone già. Ecco, il padre Cube è morto il 12 agosto del 1983. Sì. In questi anni, dalla fine della guerra fino alla scomparsa di padre Cube, lei ha avuto modo poi di incontrarlo nuovamente? Sì, senza senza dubbio sì, ma in malo modo, perché purtroppo dopo la parte scolastica, mio padre, giustamente, che nel dopoguerra era un po' difficile per ricominciare, perché ha dovuto ricominciare da capo, e naturalmente una volta che mi sono diplomato, che lo studio l'ho proseguito a Roma, poi l'ho fatto nel corso di ragioneria, sono diplomato ragioniere, e purtroppo mi ha inserito nella struttura, diciamo, di lavoro di mio padre, che era il commercio del ferro a livello buono, diciamo buono per essere un imprenditore, e naturalmente nel lavoro. Questo mi ha un po' sottratto dalla possibilità di vivere anche come ex di Mondragone, di incontrarlo. Però fortunatamente qualche volta ho avuto modo fisicamente di incontrarlo, perché lui, io abitando a Via Renula, siamo ritornati nella casa paterna originale, di Via Renula 41, di fronte al Ministero a Roma, lì nel ghetto, chiamiamolo così, sì. E avevo modo di incontrarlo nella fermata dell'autobus, e allora lì mi abbracciava, mi ricordava, e io con grande rispetto, con grande onore, lo salutavo, ma nei momenti un po' così pochi momenti, sarebbe stato bello avvicinarlo di più e conoscerlo meglio ancora. Anche se io sono stato in collegio 5 anni sotto praticamente, lui era sempre rettore nel collegio di Mondragone, e quindi ho proseguito dopo la cosiddetta periodo bellico, dopo la liberazione di Roma, ho proseguito a stare a Mondragone altri anni per istruirmi, per educarmi, perché Roma era molto, molto difficile all'epoca. Era già occupata dagli americani cosiddetti, ma il problema dei bambini era sempre un po' difficile. Quindi mio padre decise di lasciarci in collegio e ha proseguito per 5 anni, con una bellissima memoria di tutto ciò che avveniva in quel periodo di scuola, perché poi dovevamo istruirci. Però era bello vivere a Mondragone. Riuscivamo ad avere, oltre al cosiddetto studio, che era importante, ma anche un periodo di vita molto, molto qualificato a livello di natura. Facevamo grandi gite nel Tuscolo, al di fuori del parco nostro, del cosiddetto Mondragone, uscivamo in gita e facevamo un po' di tutto con la natura. Quindi è un meraviglioso periodo che ricordo ricordo benissimo, bene e con molta tranquillità e con molto rispetto. Signor Sonnino, la ringraziamo moltissimo, tanti auguri per il nuovo anno e per la sua attività, grazie molto ancora. Gentile, altrettanto, buon anno.